Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. È il 26 agosto e su questo non c'è nulla da discutere, non è un punto di vista, non è sindacabile. Lunedì 26 agosto, Irene Zerbini al microfono, buona giornata, ben ritrovati, benvenuti. Oggi un viaggio che ci porterà indietro. Perché indietro? Perché torneremo a quando avevamo 14 anni per chiederci, lo rifaremmo? È stata la scelta migliore? Di cosa stiamo parlando? Naturalmente della scuola superiore. Sembra che ci sia una fuga dal classico, almeno così si intitola una sorta di viaggio nelle scuole superiori pubblicata dall'Espresso. Crollano le iscrizioni, si chiudono le classi. Il problema è che è difficile anche accedere ai dati in questo paese, no? Per cui al Ministero dell'Istruzione li chiedi e non arrivano in percentuale. C'è stato un calo dal 6.6 del 2012 al 6.1. Cosa vorrà dire in termini assoluti? Mistero. Come si può fare una pianificazione da qui a 5 anni? Puntare sull'innovazione, la competitività delle università che veramente non sfornino disoccupati ma abbiano anche un'efficacia nel mettere in contatto mercato del lavoro e scuola, questo non si sa, perché l'unica cosa che rimane un tabù nelle grandi chiacchiere italiane sono i numeri, sempre difficile accedervi, non si capisce perché. E noi però vorremmo chiedervi, comunque individuata questa tendenza, mettiamo sempre un punto interrogativo, se veramente insegna a essere maturi, è veramente un punto imprescindibile della vita? Il liceo classico era una sorta di totem del XXI secolo, tutta la classe dirigente, le elite ci sono passate, ma anche guardando a chi ancora dirige oggi, si pensi a Silvio Berlusconi, a Massimo D'Alema, Napolitano, Enrico Letta, Mario Draghi, tutti sono stati al classico, hanno la maturità classica. Stanno cambiando i tempi e è ancora questa la scuola da cui passare. E voi soprattutto, quale scuola superiore avete frequentato e tornando indietro lo rifareste? Tutte cose di cui discuteremo dalle 9. Il numero di telefono, se volete prenotarvi, è 800 24 00 24. Hola, buenos días. Patricia Maiorca oggi è la nostra ospite. Buongiorno Patricia. Buongiorno, sono molto emozionata al sentire il mio inno nazionale. Cilena, giornalista per El Mercurio, che è un quotidiano. Patricia vive da 38 anni in Italia e la ragione per cui tu sei venuto in Italia è una ragione dolorosa, di sofferenza all'inizio. Speriamo che nel frattempo ti abbia dato anche soddisfazioni. Sei uscita dopo il golpe, quindi sei un'ex profuga politica. Oggi hai la cittadinanza italiana? No, non ancora. È vero che l'ho chiesta 38 tardi, anni. Però l'ho chiesta da parecchi anni, mi hanno detto che tutti hanno dato l'ok, ma qualcosa si è fermato al Ministero degli Interni. Dovrebbero avvertirmi. Comunque da 38 anni che sono. Quindi se mentre parliamo suona il telefono, corri pure, perché magari arriva la notizia che aspettiamo da 38 anni. Senti, probabilmente. Cos'è successo, se puoi ripercorrerlo brevemente con noi, perché da qui a breve ci sarà l'11 settembre del 73, sempre stata una data molto ricordata, celebrata. Chiaro che poi c'è stata anche una sorta di guerra degli 11 settembre dopo il 2001, però il colpo di Stato che ha portato al potere nel tuo paese Augusto Pinochet, destituendo Salvador Allende, è stato seguito da tutto il mondo, è diventato un po' una sorta di giro di boa doloroso, lacerante, a cui molti hanno sempre fatto riferimento anche negli anni successivi. Tu eri piccola, immagino. Sì, io ero una giovanissima giornalista, neolaureata, lavoravo alla radio della sinistra rivoluzionaria, radio che è stata poi chiusa l'11 settembre, quindi da lì sono rimasta disoccupata, sono vissuta così un anno e mezzo, e poi quando si cominciavano a chiudere tutte le porte, perché tutta la gente aveva paura, anche la famiglia aveva paura che tu le visitassi, l'ultima ambasciata che era aperta era l'ambasciata italiana. Ho conosciuto una famiglia, un funzionario dell'ambasciata, che mi ha portato dentro nel bagagliaio della macchina, e lì ho trovato asilo politico nell'ambasciata d'Italia. Sono venuta via a marzo del 75. E che ne è stato della tua radio? No, la mia radio è stata occupata dai militari, e da lì infatti è morta, diciamo. E i tuoi colleghi? E i tuoi colleghi? E le persone che lavoravano con te? I miei colleghi, no, alcuni sono stati imprigionati dopo, qualcuno è stato anche assassinato, il direttore della radio è un desaparecido, Bautista Fanschowen, infatti, perché la sinistra rivoluzionaria è stata il MIR, è stato soprattutto abbastanza annientato, perché tra l'altro era molto infiltrato. Ora, tu sei corrispondente del Mercurio, questo giornale che tra l'altro è balzato agli onori delle cronache internazionali, perché ha pubblicato la rivelazione che Neruda era pronto a fuggire in esilio in Messico quando un medico gli aveva iniettato una sostanza che ha fatto peggiorare le sue condizioni di salute. Questo ha sollevato gli interrogativi, per cui si è arrivati alla questione delle ipotesi, e a chiedere l'ipotesi sulla morte di Neruda, a chiedere l'esumazione della salma. Quindi un giornale vicino alla destra. Appunto, no, il Mercurio, sì, il Mercurio è un fatto interessante come giornale, perché è il giornale, è come quando in Italia esisteva soltanto il Corriere della Sera. E quindi sì, il Mercurio io direi che è un giornale conservatore, però devo dire che non mi hanno mai censurato in 21 anni che sono corrispondente. E quindi un giornale abbastanza indipendente e onesto dal punto di vista intellettuale, e l'abbiamo citato l'episodio per cui il nome di questa testata è rimbalzato un po' in giro per il mondo. Tu scrivi per il Mercurio dall'Italia e scrivevi tanto di politica. Sì, perché io praticamente sono nata al Mercurio con Tangentopoli, e quindi lì molta, molta politica, anche sulla frantumazione della DC, perché la Democrazia Cristiana Cilena, per esempio, era stata uno, insieme alla venezuelana, le democrazie cristiane più importanti dell'America Latina, soprattutto la cilena, che aveva un forte legame, forti vincoli con la DC italiana. Quindi il fatto che questa DC scomparisse era un po', anche perché se poi è diventata Partito Popolare, va bene, sappiamo tutte le, visto qui a raccontare cosa è successo con la DC, e quindi da lì è cominciata tanta, tanta politica. Poi ho fatto politica praticamente fino a Ruby, dopo già ho cominciato a scemare un po' l'interesse sulla politica italiana. E quali sono le tematiche che ti chiedono i tuoi capi redattori, le persone di riferimento nella redazione a Santiago? Adesso fondamentalmente turismo e cultura, ultimamente anche gastronomia, per esempio l'ultimo pezzo che uscirà domenica prossima è sulla pizza napoletana. Sulla pizza napoletana, cioè cosa racconterai ai cileni della pizza? Vabbè, parto da quando appare per la prima volta, infatti ho intervistato la parola pizza, ho intervistato un linguista dell'Università Federico II di Napoli, il professor Nicola De Blasi, che lui mi ha spiegato che nasce approssimativamente nell'anno 1000 con il nome di pinza del latino medievale, e poi sono andata un po' per le pizzerie, cosa significa la vera pizza napoletana, un po' infatti spiegare ai cileni che esiste veramente la pizza napoletana, perché ho scoperto anche che c'è un'associazione, Pizza Napoletana Verace, che hanno tutto anche un decalogo praticamente come deve essere una vera pizza. Contro le falsificazioni. E poi dai consigli ai tuoi connazionali, che non sono gli unici che ne hanno bisogno, e anche noi italiani o chiunque altro, su quando è ortodosso, è giusto, è adeguato, opportuno mangiare la pizza, cioè in certi orari sì, in altri no, e poi non va mai chiesta pizza con la carne? Né con l'ananas, infatti, e che soprattutto mentre a Roma mai chiedere la pizza a pranzo, perché da turisti, invece a Napoli mi spiegava appunto il professor De Blasi che adesso praticamente la pizza cioè si può fa le veci, diciamo, del fast food. Adesso mi diceva, io quando non ho tempo per andare a casa a pranzo, vado a prendere una pizza, in 10 minuti mi hanno portato la pizza buona, calda e tutto appena fatta, con una bevanda, e me ne vado. E quindi questa a Napoli si può fare. Ha sostituito il fast food. Hai scritto molto anche di mafia. Ho scritto anche di mafia un articolo che infatti che è toccato molto in Cile, sulle donne della mafia. Le donne della mafia, queste mogli, queste sorelle e tutto, che sono quelle che fanno, infatti, le incaricate praticamente di custodire l'eredità mafiosa, e che allevano i figli in questa cosa. Una cosa che mi ha colpito abbastanza. E poi parlavi di cultura, che altro oltre alla pizza, l'enogastronomico hai trattato? No. No, cultura, per esempio, adesso devo preparare un altro pezzo sull'area pedonale dei fori, poi anche le mostre Tiziano, le mostre importanti a Roma, o per esempio dei punti d'eccellenza. Ho fatto anche un reportage sulla Silicon Valley degli Alpi, Trento Rise, sono stata a Trento, infatti molto carina anche questo. Deve essere molto bello avere la possibilità di leggere i tuoi pezzi e il racconto dell'Italia, perfino farsi spiegare come si dovrebbe mangiare una pizza e le origini, dal punto di vista anche linguistico, da una cilena. Patrizia, grazie. E dal punto di vista personale, ora sono 38 anni che sei qui, sei sposata con un venezuelano, attendi la cittadinanza? Infatti la cosa assurda è che ho un figlio, non è la cosa assurda che abbia un figlio, la cosa assurda viene dopo, un figlio che è italiano in quanto è nato qua e ha potuto avere la cittadinanza dopo il 18esimo e prima del 19esimo anno, e noi, io e mio marito, abbiamo il soggiorno in quanto genitori, nemmeno genitori, parenti di cittadino UE. Certo, e se tuo figlio si dedicasse a un'attività salutare molto in voga, tipo andarsene dal nido domestico? Io credo che finché in Italia stiamo bene, poi se lui dovesse decidere di emigrare si deve vedere. Infatti è una domanda che ancora non me l'ho posta, interessante. Grazie mille, Patrizia Maiorga Marcos, cilena, giornalista del quotidiano El Mercurio. E voglio ricordare a tutti voi che ci avete contattato tra venerdì e lunedì, ci avete inondato di richieste sull'ultimo corrispondente che abbiamo intervistato, che non usa la tastiera né la penna ma la macchina fotografica, l'inglese fotografo del New York Times e del Time, chiedendoci contatti. Li abbiamo mandati personalmente un po' a tutti quelli che ci hanno fatto pervenire l'email, ma lo ricordiamo, il suo sito è www.word, scritto www.rde-jones.net, se avete anche voi curiosità e volete così percorrere il suo lavoro, la sua carriera, le sue fotografie indubbiamente straordinarie. Attenzione soprattutto alla guida, perché d'ora in poi gli incidenti saranno privatizzati, quindi andiamo in quella direzione in Italia, la privatizzazione degli incidenti, ne parliamo tra pochissimo. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. Sembra storia del passato. Questo ragazzo che ha avuto un incidente non poteva andare a scuola e poi naturalmente si continua con questa situazione che va nell'esistenziale. Noi invece oggi non vogliamo esplorare alcuna piega esistenziale o spirituale della cosa, vogliamo semplicemente dare informazione su una novità dietro le porte che potrebbe avere delle conseguenze molto importanti e potrebbe soprattutto aprire la porta a un modo di fare che chissà dove ci porterà. Stiamo parlando di incidenti privatizzati, proprio così. Intanto saluto e ringrazio per il suo studio, la sua passione, la sua competenza, un giornalista del Sole 24 Ore straordinario oggi in studio. Grazie Maurizio Caprino. Grazie a te, buongiorno. Maurizio, io trovo straordinaria l'accuratezza, il dettaglio e quanto puntuale siano sempre i tuoi resoconti. Tu ci hai aperto gli occhi ancora una volta su qualcosa di su cui ora un po', non dico tutti, ma tanti parlano. Cioè, di che si tratta esattamente? Cosa c'è all'esame oggi del Consiglio dei Ministri? E dunque, nelle pieghe di uno dei provvedimenti sul riordino della pubblica amministrazione, il riordino della pubblica amministrazione è assolutamente necessario, c'è questa appunto privatizzazione degli incidenti stradali, che significa togliere dalle competenze delle forze dell'ordine la rilevazione degli incidenti quando non ci sono né morti né feriti. Quindi se ci sono solo danni a cose, magari potete anche fare una scazzottata e lì chiamate le forze dell'ordine, però poi quando si tratta di mettere nero su bianco la dinamica dell'incidente, le forze dell'ordine, se passasse questa norma, dovrebbero alzare le mani e dire no, se proprio volete mettere nero su bianco, rivolgetevi a un privato. Ecco, questo vuol dire. Questi ausiliari, questi privati che dovrebbero intervenire in caso di incidenti, chi sono? Da quale vivaio verranno? Ecco, allora questo è da definire, nel senso che ci sarà, è previsto nell'attuale bozza di norma, un decreto ministeriale che fissi i contenuti della formazione di queste persone, che dovranno poi fare il corso, passare un esame ed essere di conseguenza nominati dal prefetto. Poi di fatto sappiamo già che ci sono alcune società che si sono attrezzate già per essere presenti, una in particolare è convenzionata anche col Comune di Roma, quindi va su tutti e due i fronti di interesse, cioè il fronte del comune, dell'ente proprietario della strada, che vuole che si faccia viabilità, come si suol dire, cioè mentre i veicoli incidentati sono ancora per strada deviano il traffico e poi ripuliscono la sede stradale. Questo è un fronte di interesse. Il secondo fronte di interesse è quello delle assicurazioni, che dovrebbero avere appunto un interesse a cristallizzare la dinamica del sinistro per evitare truffe assicurative che, come sappiamo, in Italia sono sempre all'ordine del giorno. Cosa è successo negli ultimi mesi? È successo che è stata offerta questa opportunità alle compagnie di assicurazione, ma non c'è stata una grandissima non c'è stato un grandissimo successo. Quindi questo colpo di mano, diciamo, nell'ambito della nuova norma, quindi questo vietare di fatto alle forze dell'ordine di rilevare gli incidenti meno gravi, potrebbe invece fornire quella spinta che il mercato finora non ha dato. Ma le forze dell'ordine già ora arrivano tardi e sono impegnate altrove, dunque questa norma farà di fatto pagare ai cittadini l'erosione degli organici, degli agenti? Assolutamente sì, questo è un problema che c'è ormai da anni, se non addirittura da decenni. Pensiamo che la sola polizia stradale combatte continuamente per rimanere sopra la soglia psicologica delle 12.000 unità, ha chiuso delle caserme periferiche tutte le forze dell'ordine hanno dei sistemi, diciamo, di dissuasione, non sono ovviamente ufficiali, ma sono dei sistemi di dissuasione. Quando li si chiama, si dice, loro rispondono anche giustamente che non hanno tempo, che probabilmente conviene mettersi d'accordo da soli, e questo è assolutamente vero. Alla radice di tutto c'è il fatto che litighiamo troppo sugli incidenti stradali. Ma vediamo come sarà il nostro futuro di automobilista. incidentato, adesso senza entrare in incidenti drammatici, parliamo di un tamponamento senza feriti, senza... cosa succederà e soprattutto cosa succederà sul luogo dell'incidente? Allora, partiamo da quello che dovrebbe succedere, sì, in un paese normale, ossia in un banale incidente si scende dall'auto, magari insomma ci si tira addosso qualche bestemmia, però poi gli animi si calmano e si mette... Non è un passaggio obbligato, scusate, non faccio notare. Ho detto magari, ma, sì, okay. Ho detto magari perché ci sta. La seconda volta che torni sulla, sì, sulla facilità, sì, al litigio che ci caratterizza, sì, come italiani, sì, esatto, animi che si scaldano, sì, facile, però c'è, sì, c'è magari l'adrenalina dell'urto e poi dopo qualche minuto questa adrenalina si stempera, ci si mette d'accordo, magari si firma anche il cosiddetto modulo blu per accedere, diciamo, a una definizione agevolata del sinistro, quindi avere i soldi entro 30 giorni in buona sostanza. Invece cosa succede in Italia? Succede che magari il giorno dopo, anche qualche ora dopo, si, diciamo, ci si inventa che c'è stato un infortunio, quindi oi oi mi fa male il collo, il famoso colpo di frusta, oppure spunta un testimone, un misterioso testimone capace di sovvertire la dinamica dell'incidente. Sono tutte cose che noi... che avvengono a posteriori a volte, cioè, dopo posteriori, che si è fatta la constatazione amichevole e si pensa, anche se sia torto, di come dire, avere formalizzato, sì, quanto accaduto, e si attende poi il normale passaggio burocratico, invece arriva una lettera a casa in cui l'incidentato rivendica danni magari fittizi, non esistenti, difficilmente verificabili, alla testa o il colpo di frusta, insomma, oppure, tutta una serie semplicemente, di truffe. Oppure semplicemente rivendica una diversa dinamica, per cui magari si è preso la colpa e all'improvviso rivendica di avere ragione. Certo. Tant'è che abbiamo una cospicua giurisprudenza della Cassazione, guarda caso, che ha fissato i limiti di validità del cosiddetto modulo blu, cioè ha detto che tranquillamente, la Cassazione ha detto che tranquillamente si può sovvertire questo modulo blu qualora venissero fatti nuovi, e ovviamente questi fatti nuovi spesso sono, diciamo, dolosi, sono presi, sono organizzati a fraudolenti, posteriori. Possiamo fraudolenti, dire. Sì. È stato addirittura detto che questa delle truffe intorno alla RC Auto è stata una sorta di welfare per un segmento del paese per molti anni, e per arrivare ad affermazioni di questo tipo ovviamente il numero dei casi deve essere stato decisamente consistente, quindi proliferano o sono proliferate fino ad oggi queste truffe in concomitanza invece con l'entrata sulla scena di questi ausiliari. Ecco, su questo fronte dovremmo andare meglio? Sì, in teoria sì, difatti questi ausiliari nascono proprio per dare una risposta all'esigenza che tutti quanti hanno di avere meno truffe. Meno truffe significa anche non avere le statistiche, i costi della RC Auto più alti d'Europa, perché non dimentichiamo che noi di questo stiamo parlando. Quest'anno sono diminuiti, ma semplicemente perché con la crisi si circola di meno, ci sono meno incidenti, ma il problema strutturale rimane. Quindi gli ausiliari nascono per questo motivo. Il problema qual è? Che per come si sta configurando questa modifica di legge, noi rischiamo di avere soltanto un costo in più, perché diciamo la nostra storia assicurativa degli ultimi 10 anni, anzi facciamo anche 12, dice che si prendono dei provvedimenti contro le truffe, si alza continuamente l'asticella, però semplicemente chi è già organizzato per truffare l'assicurazione sa già come eludere il tutto, quindi alla fine ci rimane incastrato soltanto il poveraccio. La persona in buona fede. Esatto, a cui vengono richieste più prove per dimostrare di avere ragione, che giustamente, essendo in buona fede già in non partenza, aveva collezionato, non aveva raccolto. Esatto. E quindi, mentre invece chi aveva già all'inizio un'intenzione fraudolenta, ovviamente si era organizzato per aggirare eventuali ostacoli legislativi. Una situazione complicata, e ci chiedono gli ascoltatori tramite SMS al 349-238-6666, chi li paga? Cosa faranno i vigili urbani? Dunque rimangono questi vigili urbani che non avranno più niente da fare nell'immaginario collettivo. Qui si creano nuovi albi, si creano lavori fittizi. Questa è un'altra critica che ci arriva da Teo, uno degli ascoltatori che ci ha scritto. Noi ora vogliamo sentire il presidente di Consumer Italia, che ringrazio per il suo tempo. Buongiorno e benvenuto a Fabrizio Premuti. Buongiorno a voi. Quindi alcuni spunti e alcuni dettagli sono già stati forniti nel corso della trasmissione. Ora, lei condivide questo tipo di timori? Io li condivido tutti, devo dire che l'analisi di Maurizio Caprino è un'analisi eccezionalmente piena, che c'entra un po' tutti i punti, e condivido poi tutte quelle remore che stanno uscendo proprio dai messaggi che lei ci diceva degli ascoltatori, soprattutto quelle che riguardano una nuova figura professionale oggi inesistente, se non quella degli ausiliari che fanno multe sui divieti di sosta, che io credo che sia del tutto ridondante, perché per ritornare al momento dell'incidente stradale, laddove accade un incidente stradale, già oggi gran parte dei cittadini compila il modulo blu. È soltanto quella parte che dall'incidente non riesce a trovare una ragione nel fatto che è accaduto che chiama poi la pattuglia. Capisco bene che le pattuglie ormai siano merce rara sulle strade, ma questo non è colpa delle pattuglie, e se noi dobbiamo incrementare e riorganizzare la pubblica amministrazione, probabilmente è arrivato il momento di rifare i conti e rimettere sulle strade un po' di uomini in divisa, magari indicendo anche dei nuovi concorsi. Ora, mettere questa nuova figura, che porterà a un aggravamento di costi enorme, soprattutto in campo assicurativo, io credo che sia folle, perché è folle il momento in cui noi ci lamentiamo tutti per il caro RC Auto e poi troviamo il sistema per dare un incremento ulteriore a quella che sarà la nuova disposizione delle tariffe per l'anno successivo all'entrata in vigore di questo fatto. C'è un altro problema che ci segnalano Fabrizio Premuti, i nostri ascoltatori, cioè la credibilità, l'attendibilità di questi ausiliari privatizzati. C'è qualcuno che ci dice: chi controlla i controllori? Noi non ci fidiamo. Ecco, io condivido anche quest'ultima affermazione, noi non ci fidiamo, perché su questo allora entrerei su un altro argomento, che è quello dell'etica delle istituzioni. Noi dobbiamo metterci anche in testa che le istituzioni, la società deve rispondere a un'etica. L'avere vicino un uomo in divisa significa in qualche maniera attestare qualcosa, certificare qualcosa, avere un supporto, che poi sappiamo benissimo che l'uomo in divisa non può prendere le parti di qualcuno, l'uomo in divisa è lì ed accerta, è soltanto un'accertazione di ciò che è accaduto, l'accertamento sul quale difficilmente si può intervenire dopo e sovvertire le carte. La nuova figura, chi la può controllare? Sicuramente avremo l'ulteriore sistema di controllo, sicuramente avremo dei corsi di formazione, sicuramente avremo delle persone. E poi si apriranno contenziosi su quanto dichiarato dagli ausiliari, quindi andremo a intasare ancora di più i corridoi dei tribunali. Ma c'è qualcuno che ci racconta, Maurizio, di aver vissuto proprio lo scenario che tu descrivevi: incidente, constatazione amichevole abbastanza agevole, e poi qualcuno che rivendica o ribalta completamente la scena dell'incidente, quanto dichiarato in un primo tempo, per ottenere risarcimenti per presunti colpi di frusta e altre situazioni di questo genere. A voi è successo? Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. There was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but... Parliamo di incidenti questa mattina, incidenti stradali, perché c'è la privatizzazione degli incidenti dietro l'angolo, e se ne parlerà proprio oggi Consiglio dei Ministri. C'è un disegno di legge che prevede questa sorta di delega a degli ausiliari. Sono, come potremmo definire dal punto di vista giuridico, Maurizio Caprino? Dunque, sono dei pubblici ufficiali, in realtà hanno lo stesso status del pubblico ufficiale, per quello che dopo prevede la borsa di norma, dopo il corso ovviamente, tant'è che le loro attestazioni poi devono andare alle forze dell'ordine, le quali irrogano multe secondo che queste attestazioni trovino delle responsabilità di qualcuno per infrazioni commesse nel causare gli incidenti. Occidente. Allora, però, quindi anche loro, se scrivono il falso, rischiano qualcosa, rischiano come l'uomo in divisa fondamentalmente. Però il problema qual è? Che mentre nei corpi di polizia, grosso modo, ci sono anche degli anticorpi, scusate il gioco di parole, contro la corruzione, nel senso che si trova sempre più o meno il collega che si mette di traverso anche a sistemi, diciamo, inveterati in determinati reparti, la storia e la cronaca sono piene di cose del genere. Beh, invece in un corpo privato non c'è la garanzia di questi anticorpi, quindi oggettivamente c'è il rischio che si chiamino questi ausiliari e diventi una sorta di asta a chi offre di più, in buona sostanza, ecco. Speriamo non si vada in quella direzione. C'è poi il problema anche del disegno di legge, che avendo un governo a scadenza, forse, chissà, forse rimarrà un disegno, ce lo segnala un ascoltatore. Ma questi, i titolari di queste società a cui verrà dato l'appalto, possiamo chiamarlo in questo modo, Maurizio, del controllo, la convenzione. Esatto, comunque in parte sì, perché ripeto, già operano per conto di comuni, ovviamente non per fini assicurativi, ma per fini, diciamo, di viabilità, di ripristino della viabilità. Quindi loro a questo punto, come dire, tra virgolette, fanno l'utile e il dilettevole, quindi lavorano sia per il comune sia per l'assicurazione che si convenziona con loro, sia eventualmente per l'utente che non ha alcuna convenzione, però vuole che qualcuno metta nero su qualcuno, qualche terzo metta nero su bianco la dinamica. Ecco, queste società, diciamo così, questi ausiliari che ci siamo inventati da poco, sono imprese private. Ovviamente sì. Secondo quanto abbiamo appreso finora, hanno ispirato la norma, sono state parte attiva, visto che mi sembra avranno un beneficio. Questo non lo sapremo mai, però ovviamente, diciamo, a posteriori direi che c'è una incredibile somiglianza fra il modello già messo in atto da queste società e il modello che disegna la norma, questo si può dire. Ecco, nel frattempo però le forze dell'ordine sono sempre meno presenti sul territorio e non sembra che le telecamere, che spesso sostituiscono attività che prima venivano svolte da vigili, polizia stradale, abbiano la stessa efficacia. Diciamo che le telecamere possono servire molto in alcuni contesti, penso ai contesti, insomma, lo vediamo tutti i giorni. Passaggio con rosso, lo stesso tutor in autostrada che vigila molto più rispetto a quello che facevano le pattuglie prima, però ecco, il tutor ha affrancato la polizia stradale da una serie di compiti, per cui si sarebbe dovuto recuperare qualche pattuglia per fare qualche servizio in più mirato su altre cose. Invece questo non si è visto perché contemporaneamente, o meglio si è visto poco, perché contemporaneamente purtroppo gli organici sono andati diminuendo perché non ci sono i soldi per nuovo personale. Devo dire che mentre nel resto della pubblica amministrazione è anche vero il fatto che l'automazione dia la possibilità di usare meno persone, ma nei servizi di vigilanza no, il ruolo dell'uomo è sempre assolutamente necessario, un po' come negli ospedali, cioè non possiamo inventarci il robot infermiere, per capirci. E lei è d'accordo, Fabrizio Premuti, lei che ha parlato di nuovi concorsi, sarebbe ora che si pensasse a rimpinguare questo tipo di organico, perché svolge poi un servizio che sulla qualità della vita, non solo sul controllo stradale, non è sostituibile certo da qualche ripresa di telecamera. Ma io direi proprio di sì, anche perché al di là del fatto che ormai il corpo della polizia stradale è sfiora i 2000 organici, ma tutte le forze di sicurezza in meno vuol dire sotto... lei prego? Sfiora i 2000 posti in meno rispetto a quanto a necessario. Sono 2000 persone che operano sulle strade, questo è il problema, stanno sotto organico di 2000 persone. Sotto organico di 2000 persone, si scusi, esatto. La precisazione. Chiedo scusa. Ma il problema non è soltanto polizia stradale, tutti i corpi di sicurezza in Italia sono sotto organico ormai, e poi c'è una alta percentuale di questi corpi per utilizzi che sono ormai impropri, come le scorte. Le scorte assorbono, leggevo pochi giorni fa proprio delle dichiarazioni di Biserni, che è polizia stradale, le scorte ormai prendono 33-35 mila servizi all'anno. Questa è tutta gente in meno sulle strade, per le quali i concorsi ormai sono diventati una cosa necessaria. Bisogna ritornare a mettere gente sulle strade, bisogna far entrare nuovi soggetti nelle corpi di polizia, nelle forze di polizia, perché anche lì l'età media è intorno ai 46-47 anni. Persone che stanno tutto il giorno in mezzo alla strada probabilmente dovrebbero essere un po' più giovani. Ma non soltanto questo, io volevo ritornare un attimino anche al fatto che prima si diceva di queste aziende private che interverrebbero e quindi completerebbero il circuito dell'incidente stradale. Il problema vero è che l'introduzione di questi ausiliari è avvenuta tanti anni fa, non è una cosa recentissima, parliamo della Bassanini bis, quindi di oltre 20 anni fa. Ed il problema ulteriore che hanno implicato, per esempio, all'introduzione, lo voglio ricordare perché di consumatori ce ne occupiamo ormai da oltre 20 anni, almeno io personalmente, l'introduzione degli ausiliari, per esempio, per le multe per divieto di sosta, sì, ha dato luogo a una marea di ricorsi nel primo momento, quando gli ausiliari prendevano le percentuali. Voglio ricordare che il malaffare, purtroppo, quando non c'è l'anticorpo, come diceva prima Maurizio Caprino, e il malaffare purtroppo è un po' più frequente. Quando si prendevano le percentuali sulle multe per divieto di sosta, i ricorsi erano decine di migliaia, perché le vetture non erano collegate dove erano verbalizzate, ma bensì quelle vetture erano tranquillamente a circolare in altri posti. Quindi uno strumento di ulteriore confusione, contenzioso, lungaggini. Fabrizio, rimanga con noi brevemente, ci chiamano da Roma, penso. Buongiorno Carlo. Pronto? Buongiorno a tutti. Siamo più purtroppo quasi alla conclusione, la invito alla sintesi. Dica. Guardi, volevo semplicemente porre un'attenzione su quello che la tecnologia potrebbe fare per in qualche modo agevolare la constatazione di incidenti e quindi sì, appurare la verità in questi casi. Qual è il suo suggerimento? Esistono soluzioni cosiddette di insurance telematics. Quindi sono sostanzialmente soluzioni che si basano su una scatola nera che si può installare sull'automobile, che consente di tracciare tutti gli eventi che succedono sia in termini di accelerazione. E quanto costerebbe questo dispositivo che ha alcuni anni? Quanto costa? È alla portata di tutti? Molto poco. Diciamo che attualmente esiste già, sono strumenti che già esistono in Italia. Alcuni ce l'hanno. Per tutto il mondo, sì. Sono note case in cui non c'è il nome. Quindi diffonderle di più. Diffuse. Grazie mille, Carlo. Di più e promuoverle. Grazie Carlo, è importante anche questo suggerimento. Ma c'è un problema di costi, Maurizio. Sì, c'è un problema di costi che è stato sollevato dalle assicurazioni. Le assicurazioni questo sistema lo promuovevano quando c'era il libero mercato e quindi i costi venivano spalmati su chi chiedeva l'installazione della scatola nera. Adesso che l'istituto di vigilanza ha detto che devono pagare le assicurazioni hanno improvvisamente cambiato idea e quindi il progetto Scatola Nera si è arenato. Grazie mille a Maurizio Caprino, giornalista del Sole 24 Ore, a Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, anche all'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, oggi il dottor Giordano Biserni, che salutiamo, cui siamo vicini, per una questione personale non ha potuto essere con noi. Torneremo tra pochissimo linea al GR per chiedervi: rifareste la scuola superiore che avete frequentato da piccoli? Ditecelo all'800 24 00 24. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E continuano le reazioni a questo nuovo ausiliare del traffico a pagamento. Sarà un privato? Avrà una pettorina di quelle fluorescenti, immagino, così che anche di sera si veda bene. E interverrà su chiamata, perché non interverranno più ora le forze dell'ordine, intese come polizia stradale o vigili urbani, se non ci sono feriti o addirittura decessi. Quindi da questi incidenti, dai quali però inevitabilmente sempre avete sentito con quale frequenza nascono liti tra cittadini che poi impegnano le pattuglie della polizia, dei vigili per ore, questi incidenti verranno rilevati, diciamo così, da questa nuova figura, e le proteste sono tantissime. Che cosa faranno i vigili urbani? Dunque, concludiamo con l'opinione proprio del gestore del sito poliziamunicipale.it, Stefano Manzelli, che ringrazio per il suo tempo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Per voi vigili urbani, com'è questo nuovo disegno di legge sulla razionalizzazione della pubblica amministrazione? Se ne discuterà oggi. Come l'avete accolto? Ma ci sono sicuramente degli spunti interessanti, perché intanto viene in qualche modo autorizzato l'uso della, diciamo, del volontario anche per fare degli interventi di altro tipo. Cioè, a corollario di questa iniziativa, che è discutibile, cioè l'intervento, la prerogativa solo dei privati sui sinistri senza lesioni è abbastanza discutibile, perché può far nascere comunque problematiche. Pensiamo ai territori dove queste organizzazioni faranno fatica a sorgere in tempi ragionevoli, per cui bisogna capire anche in queste fasce temporali cosa succederà. Credo che lì andrà fatto qualche passaggio, qualche limatura, no? Comunque, per esempio, tutti gli ascoltatori, non sono certo un campione scientifico, ma è significativo che gli SMS invochino voi, vogliono i vigili, si fidano della polizia municipale e non riporranno la stessa dose di fiducia in eventuali privati, con pettorina o meno. E il problema del costo non è neanche il principale, è proprio una questione di fiducia verso colui che fa le foto, che rileva quanto appena accaduto. Beh, sono d'accordo, perché comunque effettivamente la polizia municipale praticamente oramai, cioè i vigili tradizionali, i vigili urbani, facciamo tutti gli incidenti praticamente, il 90% degli incidenti nelle aree urbane oramai sono competenza della polizia municipale, per cui c'è un patrimonio di conoscenza, di tecnicismo che è molto elevato. È chiaro che è più importante intervenire nei sinistri con lesioni, che sono una stragrande, purtroppo, maggioranza. Mi domando anch'io quello che succederà con questi privati quando, ad esempio, anche se il sinistro non ha provocato lesioni, comunque è un macro evento, e quindi dovremmo vedere arrivare, mi domando, i privati con le sirene lampeggianti blu, già, perché questo è un altro aspetto che è interessante, nel senso che sono troppi, secondo me, i veicoli che montano oramai legittimamente e dispositivi supplementari blu e circolano senza nessuna ragione. Bisogna capire anche questo aspetto, perché si rischia di fare veramente ancora più confusione fra quelli che sono i servizi di emergenza veri e propri, e cioè i servizi di polizia, e quelli invece che sono semplicemente ausiliari. Stefano Manzelli, ecco, appunto, dica il vostro suggerimento come categoria, le vostre richieste, quali sono in quest'ambito? Le nostre richieste, più che altro, noi apprezziamo il fatto che ci possono essere degli ausiliari, come è scritto in questo disegno di legge, che possono contribuire con la polizia municipale alla regolazione del traffico in occasione di feste, fiere, sagre, competizioni ciclistiche, gare podistiche, perché immaginiamoci, io però sulla via Emilia abbiamo necessità, passo il giro d'Italia, di chiudere 50 strade laterali. No? In quell'ambito ben venga l'ausiliare. Ben venga l'ausiliare, ma anche davanti alle scuole, perché comunque regolare il traffico davanti a una scuola è un'operazione che richiede una competenza. Fino ad oggi in Italia si è, come dire, operato a braccio, a fortuna. La prima volta che succede un incidente, che appunto il nonno vigile comunque è coinvolto in un incidente che magari non doveva fermare la macchina, il problema nasce. Quindi questo è un aspetto assolutamente per noi positivo. L'aspetto invece che riguarda la regolazione dei sinistri, secondo me va un attimo vagliato meglio, per evitare poi anche che nascano delle competizioni fra la polizia locale, il cittadino e il privato, perché può esserci anche questo, nel senso che loro hanno... Certo, vedere un privato che multa o vedere un altro privato che rileva qualcosa non a nostro favore solleciterà, infuocherà, come è stato detto, gli animi ancora di più rispetto a quanto già accade. Grazie a Stefano Manzelli, capo della polizia Polizia Municipale di Castel Bolognese e soprattutto gestore del sito poliziamunicipale.it. Una tematica che merita approfondimenti e suscita diversi interrogativi, ne abbiamo raccolti alcuni, poi potete continuare con la discussione sul blog di Maurizio Caprino, giornalista del Sole 24 Ore, proprio sul sito del Sole 24 Ore. Dicono che it's cool to know nothing, cioè è abbastanza, possiamo dirlo, figo non sapere niente, perché tanto a scuola non si impara nulla. Disfattista come apertura musicale, ringrazio comunque per la sottilezza, l'abilità sempre Alessandro Longoni e gli autori di questa trasmissione, Benedetta Acri, l'abilità anche musicale, Gianmarco Ferronato in regia, sempre puntualissimo. Noi oggi ci vogliamo chiedere, ma potendo tornare indietro, rifaremmo la scuola superiore che abbiamo frequentato o non la troviamo più adeguata ai tempi? O forse per vincere le sfide dei giorni d'oggi servirebbe una preparazione che va in un'altra direzione, dipende quale abbiamo avuto, più tecnica, più umanistica, più scientifica, più incentrata sull'economia, sul diritto? Queste sono domande che vorremmo porre a voi, 800 24 00 24 e soprattutto via SMS potete informarci sulle vostre sensazioni al 349 238 6666. Si parte da una svolta, così la definisce l'Espresso venerdì. C'è una fuga dal classico, sembra. Crollano le iscrizioni, si chiudono le classi, non ovunque. Questo che era il liceo definito dell'intelligenza, della classe dirigente, della classe politica, perché i parlamenti erano pieni di persone che come maturità vantavano la classica. Oggi non si può dire, sempre per, io non mi stancherò mai di segnalarlo, per questa allergia che c'è in Italia nel raccogliere dati, nel fare statistiche, raccogliere numeri. Impossibile saperlo, forse fra 10 anni sapremo come era composto il Parlamento ai tempi del governo Letta, quando sarà un ricordo. Infatti adesso cominciano a uscire, no, le statistiche su quanti democristiani avevano il liceo classico nel loro curriculum. Peccato che interessi poco, nel senso che adesso, al di là della composizione distruzione del Parlamento moderno, nel senso che avere numeri, statistiche accurate da parte del Ministero dell'Istruzione, ma non è l'unico questo ministero che tarda rispetto ai ministeri e agli uffici di statistica di altri paesi, è l'unico punto di partenza, certo, al di là delle opinioni, per poi fare una pianificazione accurata di quello che deve accadere da qui a 5 anni, quando poi nell'università si entra. Comunque sembra che percentualmente rispetto all'anno precedente ci sia stata un'inflessione dello 0,5% riguardo alle richieste di licei classici. Sembra che, sempre qui parliamo in termini percentuali, non abbiamo i dati assoluti, ci sia una fuga verso il liceo linguistico. 8 su 10 di quelli che hanno scelto il liceo per settembre, cioè il doppio del 2009, si sono indirizzati verso il linguistico, ma sono molto presenti anche l'artistico e il musicale. E voi? Rifareste il liceo che avete frequentato qualche anno fa, se siete giovanissimi, o qualche decennio fa, se invece appartenete a un'altra fascia d'età? Cominciamo col dar subito la parola a voi, agli ascoltatori. Walter, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, da dove chiama? Allora, io chiamo tra la provincia di Trieste e la provincia di Gorizia. Bel posto. Comunque, lei cosa ha frequentato? Allora, io adesso vi racconto in 2 secondi la mia storia. Cioè, io sono un lombardo trasferito qui in Friuli Venezia Giulia da molti anni, no? Sì. Ho 61 anni, sono già nonno e sono un tecnico commerciale. Sì. Ok? Quindi ho un'esperienza diretta con il territorio, è un'esperienza di prossimità, ed è un'esperienza legata all'agricoltura e alla zootecnia e all'ambiente, perché mi occupo di batteri e di enzimi, un mestiere un po' strano. Lei frequentò, no, invece è molto interessante, lei frequentò, non so, l'istituto agrario? Allora sì, certo, io frequento tutti questi professoroni. No, io sto parlando della sua esperienza, della sua maturità. Che corso di studi scelse? Io ho fatto uno studio, degli studi che non hanno nulla a che fare, però la mia era un'osservazione così, stando al di fuori di questo, cioè al di fuori dentro l'argomento, ma un pochettino fuori. Cioè io credo di aver compreso in tutti questi anni di attività e di giro che ho fatto per il mondo e soprattutto qui in Italia, occupandomi proprio di ambiente, quindi di territorio, di zootecnia, di agricoltura, stalle, maiali, vacche da latte, quindi la nostra gente, la nostra Italia, se vogliamo, e in questo caso il nostro Friuli, che il classico sia stata una sorta di quasi fregatura per creare una classe dirigente che in questo momento, da circa 40 anni, non ci sta dicendo tutto il contrario di tutto. Mentre invece uno studio tecnico, uno studio più portato ad affrontare il problema per quello che è, e quindi, come dire, mescolandolo sempre anche un aspetto culturale e sociale, certamente non si può fare a meno di capire dove noi viviamo e che cosa noi siamo. Però il tecnico avrebbe prodotto una classe dirigente e politica più concreta e quindi più vicina alle soluzioni, visto che si invocano soluzioni e non solo enunciazioni dei problemi. Walter, abbiamo colto molto bene questa sua opinione, espressa con grande decisione e convinzione, dalla provincia di Gorizia. Grazie. 800 24 00 24. Ecco, sento già sussultare, perché ormai sento anche attraverso il telefono, uno dei nostri ospiti, che saluto, la professoressa Emilia Marano. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Emilia Marano è la preside del liceo Virgilio di Roma. Come vanno le iscrizioni? Si registra un calo rispetto a qualche anno fa, quest'anno? Quest'anno abbiamo perso una classe, veramente, però per pochi numeri, ecco, no? Quindi non è che ci sia proprio questa defiance, come si dice, è per pochi numeri, perché purtroppo ora, se non hai una classe da 28-30, non puoi avere una classe, se non hai alunni sufficienti. Però insomma non è che ci sia proprio questo calo così esagerato. Sì, ma questo l'abbiamo capito, lo scopriremo nel 2060-2070, sì, quando saranno pronte le statistiche per questi anni. Sì, però le dico che noi abbiamo perso una classe, ma per pochi numeri, ecco. Certo. Sì. E poi il mio liceo, che fra l'altro Virgilio non è solo un classico, ma anche uno scientifico, un internazionale spagnolo e francese, oltre che linguistico, effettivamente dall'altro lato cali non ce ne sono stati. Anzi, questo sembra che siano sempre più, quanto diceva lei prima, sono sempre più popolari. Il linguistico ha mantenuto il numero, anche l'internazionale, e in realtà il classico per qualche unità ha perso una classe. Ma professoressa, alcuni ragazzi ci scrivono, ma a cosa serve studiare il greco? È meglio l'inglese, poi è troppo difficile. Lei cosa risponde, guardi, da preside? Guardi che l'inglese si studia anche al classico, non si studia solo al linguistico. Le lingue, l'inglese si studia al classico, e non è vero che non serva studiare il greco. Il greco è alla base della nostra cultura, assieme al latino. Potenziato potrebbe portare a effettivamente dei risultati positivi. Non si tratta solo di una mentalità tecnica, pratica. Prima di tutto, volendo rispondere al signore di prima, noi non sappiamo se effettivamente i nostri dirigenti politici abbiano avuto questa possibilità di fare il classico. Io so soltanto che Enrico Fermi, che è premio Nobel per la fisica, ha frequentato il liceo classico. Lo dico perché io ho diretto anche l'Albertelli a Roma, che è stato il suo liceo classico, e come lui Persico, come lui tante personalità importanti, scienziati, che hanno dato un contributo alla cultura e alla scienza di tutto il mondo. Quindi insomma, adesso rimpicciolirsi e ridursi a questo, no. Abbiamo tanti ragazzi lo del sapevo. Classico che entrano nelle facoltà a numero chiuso, scientifiche, insomma, sapevo anche, che stava fremendo alla provocazione di Walter, che sostanzialmente ha detto: se questa è la classe dirigente che abbiamo avuto negli ultimi 40-50 anni, se è vera la premessa che abbiamo detto, che era una sorta di must per accedere non solo al Parlamento, non confondiamo classe classe politica e classe dirigente, ma in generale alla classe dirigente, era frequentare il liceo classico, forse è il caso di ripensare, come dire, alcune coordinate di quelle che erano considerati passaggi imprescindibili. E poi c'è finora l'input della preside, avete sentito, Emilia Marano, di una di quelle istituzioni che hanno punti di riferimento della capitale, non solo, cioè il liceo Virgilio. Ha nominato la possibilità di abbinare una formazione umanistica a un ottimo successo, ottimi risultati in campo scientifico, e noi salutiamo, ringraziamo, siamo ben felici di avere con noi uno dei più grandi scienziati della storia italiana. È stato inserito nella classifica dei primi 10. Edoardo, buongiorno, professore Boncinelli. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei ha sentito su cosa si disquisisce. Vorremmo partire con una domanda personale. Innanzitutto, Edoardo Boncinelli, lei cosa ha frequentato? Perché in realtà lo ignoriamo. Il classico, e sono molto contento di averlo fatto. Edoardo Boncinelli è un genetista, ma è anche uno psicanalista. È considerato nel mondo, è un fisico fra i più importanti scienziati italiani, e ora è in libreria con un'autobiografia che si intitola Una vita sola non basta. Quindi lei, avendo anche due vite, rifarebbe il classico anche nella seconda? Beh, direi che non c'è dubbio, però non bisogna nemmeno spaventare quelli che non lo fanno, perché uno può diventare in gamba in qualsiasi maniera. Non ci sono dei passaggi obbligati, quindi sono un pochino, come dire, dei pregiudizi secondo lei, quelli che è necessario frequentare una tal scuola per poi riuscire a... Guardi, le persone si valutano a posteriori, qualunque strada facciano, quelle in gamba sono in gamba e quelle non in gamba sono non in gamba. Certo, c'è poi anche il gusto e la passione. Per esempio, io sono contentissimo di aver fatto il classico, ma non credo che se avessi fatto un'altra scuola più o meno non sarei stato lo stesso. Così mi ha bruciato una domanda, però. Io le volevo chiedere proprio questo, professor Boncinelli, le volevo chiedere, ma lei, se non avesse fatto quel liceo classico, oggi sarebbe Edoardo Boncinelli? E quindi, secondo lei, in realtà sono le persone che poi utilizzano gli strumenti che vengono messi a disposizione, chiaro, dal sistema educativo, ma sono le persone che fanno la differenza? Io non so nemmeno immaginarmi senza il classico, perché io già leggevo il latino prima di andare al liceo. Il greco è stata una bellissima sorpresa. Ma come si scopre il proprio talento, secondo lei? Questa è una domanda un pochettino trabocchetto, perché non c'è niente di più difficile di sapere che cosa si vuole, anche sembra che tutti sappiano quello che vogliono, e soprattutto di saper valutare se quello che si vuole è anche quello che sappiamo fare. Quindi ci vuole... facendo una battuta, ci vuole una vita per scoprirlo. E poi c'è un problema in più, io credo, nel senso che ora si scelgono, selezionano, si danno i voti alle scuole anche pensando, no, a quale sarà più utile, più importante, ma noi non abbiamo idea di come sarà il mondo da qui a 2 anni, figuriamoci da qui a quando questi ragazzi che iniziano un percorso ora avranno finito anche l'università, per coloro che continueranno. Però bisogna anche prepararli a questo futuro sempre più variabile e sempre più incerto. Ora, secondo l'UNESCO, si laureeranno più persone nei prossimi 30 anni che tutta l'umanità fino ad oggi. Certo. E questo vuol dire che il titolo... Fare due conti. Ma quindi il titolo di studio, secondo lei, che valore ha? Avrà lo stesso peso di oggi? Ma io sono favorevole da tanto tempo al fatto che il titolo di studio non abbia un valore legale, perché così si vede veramente chi vale e chi non vale. Però in Italia non se ne vuole sentire parlare di questo. È un tabù. Io penso che un buon liceo e una buona scuola media e una buona scuola elementare aiutano molto, però poi il risultato finale viene dalle persone, perché chi è in gamba resta in gamba e chi è per il sacchiotto resta per il sacchiotto. Grazie, è stato molto illuminante questo passaggio con Edoardo Boncinelli. Naturalmente, buon lavoro e grazie per essere stato con noi questa mattina, professore. Grazie, grazie. E avete sentito, perfino lui dice in realtà la differenza la fanno le persone, eppure sulla scelta della scuola dei figli si dividono famiglie, scorre sangue a tavola e a volte l'ultimo o l'ultima a essere interpellato purtroppo è proprio il ragazzo o la ragazza che avrebbe tutto le possibilità di dire quello che stima, quello che vuole e quello per cui si sente portato. E voi? A voi com'è andata? Rifereste la scuola che avete frequentato? Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Ancora! It's cool to know nothing, insiste il regista, ma forse ce l'ha con noi che ci spendiamo oggi a parlare di qualcosa che ricorda inevitabilmente la polvere che si appoggia su libri, su classici che poi una volta lasciato il ginnasio non apriremo mai più. O ci torneremo e li riscopriremo, perché sono tanti i casi della vita e sono tante le fasi della vita, per cui a un iniziale rigetto dato da una didattica un pochino troppo oppressiva, tradizionale, come ci segnala alcuni ascoltatori, poi può succedere che in seguito invece segua una passione, una riscoperta. Ho fatto ragioneria per comodità, ci scrive un ascoltatore, e sempre per caso sono diventata commercialista, che è ancora la mia professione da 20 anni, sono ben contenta. Ottimo. Dunque, ho fatto il classico tra il 49 e il 53, sono stati anni fantastici, lo rifarei, pesante ma formativo, da Brescia, ma non si firma. Dalla mia esperienza ho constatato che i grandi manager delle aziende private, questo è un altro ascoltatore, hanno tutti una formazione tecnica, e questo è Luca. Devo firmarmi anch'io? Mi dicono ok. Irene Zerbini, buongiorno, per chi si fosse messo in ascolto da poco. Carlo, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Cosa fa? Cosa ha fatto soprattutto? Io chiamo da Verona, sono sì. Neurochirurgo, esattamente neurochirurgo pediatra, sono in pensione da un paio di anni. Complimenti per la scelta, naturalmente, e per il fatto che lei, a differenza di noi che chiacchieriamo, ha fatto qualcosa di davvero utile nella vita. Ma nella vita facciamo tutti qualcosa di utile, sa? Voglio dire, il fatto di fare una professione che viene un po' vista, idealizzata come un qualcosa di estremamente importante, in realtà è solo una professione. Tutti quelli che lavorano fanno qualcosa di utile, non c'è alcun dubbio. Senta, io oggi Carlo, gioco a golf e per me è molto utile. È molto utile, sì, per l'industria del golf, immagino. Senta, ma lei che liceo aveva fatto? Lei ha fatto un neurochirurgo come professione e aveva una formazione di che tipo? Un liceo, scuola superiore? Guardi, ho fatto il liceo classico. L'ho fatto in ginnasio, l'ho fatto al Maffei, a Verona, sì, che è una scuola famosa, poi la famiglia si trasferì a Treviso e ho fatto la maturità al liceo Canova di Treviso. E ha continuato lì, e lo rifarebbe oggi? Se sì, lei fosse 14enne oggi, lo rifarebbe? Sì, guardi, sicuramente sì, non solo, ma io sono orgoglioso che le mie figlie hanno scelto, hanno fatto anche loro il liceo classico, una poi si è laureata in filosofia, e io spero che le mie nipoti, ovviamente senza forzarle, ma spero di fornire loro gli elementi per i quali loro possono ripercorrono questa strada, che lei ovviamente trova ancora attuale. Dottor Carlo, grazie, dobbiamo sintetizzare un po' tutti gli interventi, sono tantissimi e vogliono intervenire. Dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno, pronto? Sì, pronto. Qualunque scuola lei abbia fatto, non deve essere timido. Che maturità ha? Pronto? Stiamo parlando pronto con lei, Vincenzo, dalla provincia di Roma. Eccoci, c'è solo lei. Buongiorno, sì. Scusate, ero in macchina. Sì, come tanti. Ci dica. Pronto? Sì, buongiorno. Io ho frequentato la maturità classica. Ormai, ahimè, ho preso la maturità 31 anni fa. Sì. E poi nel proseguo, come tanti, ho affrontato studi scientifici, mi ero iscritto a scienze dell'informazione, poi ho cambiato, sono entrato in una forza armata dello Stato, adesso mi occupo di aviazione civile e sto per lasciare anche tra l'altro il suolo della Repubblica per un'esperienza all'estero. Dal liceo classico, quindi, quante cose? Dal liceo classico. Vincenzo, lo rifarebbe? Assolutamente sì, perché tra l'altro, come ho già sentito dire, io ritengo che siano gli strumenti, appunto degli strumenti, è importante la persona, però il liceo classico mi ha dato la possibilità di approfondire la mia duttilità in termini di preparazione, la flessibilità. Non sono mai stato d'accordo con l'acronimo internet inglese e informatica, perché sono cose che si possono approfondire anche per conto proprio. La scuola deve dare una preparazione, penso, un po' più ampia. Grazie a Vincenzo. E tra gli ascoltatori abbiamo anche un simpaticissimo opinionista, lo leggete tante volte. Buongiorno Beppe Severgnini, grazie per aver chiamato. Ci mancherebbe, vi ascolto, mi sembra giusto. Sul simpaticissimo qualcuno avrebbe da dire, ma è normale nel nostro mestiere. Sì, sì, vabbè, beh, sapessi cosa scrivono e gli ascoltatori via SMS anche sulla simpatia mia. E non siamo purtroppo in grado di piacere a tutti. Senti, Beppe Severgnini, devo farti la domanda di base. Che scuola hai fatto? Che scuola hai frequentato come superiori? Ho studiato il liceo classico di Crema, la prossima domanda che mi stai per fare, se la rifarei, sì, però andrei a vedere quale liceo classico, perché ne ho girati moltissimi nell'ultimo anno, so, molti dei tuoi ascoltatori, ho la sensazione, commentano un liceo che hanno fatto come me 30 anni fa, sono cambiate le cose, alcuni licei classici sono diventati estremamente... rigorosi, ma anche costringono i ragazzi a studiare a casa 5-6 ore al pomeriggio. Questo è profondamente sbagliato, sono diventati molto nozionistici, non tutti, quelli buoni sono rimasti buoni, però bisogna andare a vedere. Eppure Beppe, tu adesso hai segnalato una questione del rigore che piace moltissimo soprattutto ai genitori, cioè si vantano del fatto che i figli stiano a casa dopo le canoniche ore di lezione 5-6 ore piegati tutti i giorni immancabilmente sui libri, lo vivono come un aspetto positivo. Perché tu hai detto che è negativo invece? No, io trovo che dei genitori che hanno queste idee dovrebbero rivolgersi a uno specialista, ma i genitori e non i ragazzi, perché un ragazzo al pomeriggio deve stare con i suoi amici, deve andare a studiare un po', deve dedicarsi almeno un'ora a Facebook e compagnia, perché questi domani saranno strumenti professionali e non devi farne un disadattato. La scuola, bisogna studiare a scuola. Io quello ho segnalato prima, vedi, per via del libro più recente, ho girato l'Italia nell'ultimo anno, quindi 22 scuole superiori in 16 regioni, credo di sapere quello che dico. Ti assicuro che noi siamo ancora capaci in questo paese di produrre ragazzi formidabili, ma veramente formidabili. E noi ce la giochiamo con gli inglesi, gli americani, cioè con tutte le difficoltà, i soldi, sai che la scuola superiore in Italia ci costa come l'interesse sul debito pubblico. Ma il debito pubblico noi mettiamo a posto cose del passato, la scuola investiamo sul futuro. Io ti dico che in molte scuole, non solo licei classici, io ho trovato, ti dico, il liceo Lanza di Foggia, Messedaglia di Verona, il Quintiliano di Siracusa, dico a caso la Sproni di Nuoro, tu vedessi che ragazzi, io ho chiuso in alcuni di questi posti ricosto a Foggia dicendo: signori, voi dovete spiegarmi com'è possibile che una città capace di produrre 300 ragazzi così sia in fondo a tutte le classifiche italiane. I ragazzi mi hanno fatto un'ovazione e gli adulti erano un po' meno contenti, ma insomma. Sono gli italiani di domani, quindi occuparsi di loro, occuparsi di queste tematiche, vuol dire proprio mettere il dito in quelli che sono i problemi e le possibilità di risolverli, di innovazione, di competitività, tra l'altro, oltre all'aspetto personale umano, sembra una domanda, no, sulle scelte personali. In realtà ci stiamo chiedendo, la scuola superiore italiana è attrezzata per le sfide di domani? E soprattutto la più grande sfida, che tu hai segnalato molto bene Beppe Severgnini, cioè non distruggere quella che già è una grandissima ricchezza di tutti gli esseri umani, cioè la creatività, non distruggere questa possibilità e i talenti che i ragazzi portano sui banchi di scuola, spesso perché vengano in realtà schiacciati invece che valorizzati. Qual è la tua ricetta? Tu che hai girato non solo queste 23 scuole che hai citato, come si intitola il libro su questo tema? Ne abbiamo parlato anche Radio 24, penso, Italiani di domani. Italiani di domani. Se qualcuno viene al Festival Letteratura di Mantova, chiudo il mio lungo giro con Ivano Fossati, che è un altro che ci tiene ai ragazzi italiani, quindi a 7 settembre, se qualcuno non sa cosa fare viene a Mantova, mi fa piacere. No, anche se sa cosa fare, potrebbe anche cambiare programma, adesso che lo sappiamo. Ma ora, italiani di domani, Beppe, tu hai parlato di quanto può essere deleterio appunto schiacciare questa educazione, 5-6 ore di compiti dopo la scuola. Ma quali sarebbero, secondo te, le strade da percorrere per una pedagogia, una didattica davvero moderna e anche piacevole? Beh, i professori sono fondamentali, sono dei minatori di talento, tocca loro capire dov'è il talento di un ragazzo. Io non ho mai conosciuto un ragazzo italiano che sia completamente privo di talento, può essere un talento sportivo, musicale, matematico, linguistico, perfino sociale, che è un talento molto sottovalutato in Italia. Ecco, l'insegnante deve andare a capire quali sono le forze e le debolezze. Io ne ho trovati, non te lo racconto perché viene lungo, ma io ho avuto una professoressa che ha capito dove ero forte, dove ero debole, eccetera, eccetera. E l'altra cosa è di usare le scuole anche al pomeriggio. Io sono convinto che tenere le scuole italiane chiuse tutto il pomeriggio, perché questioni di amministrazione, assicurazioni, burocrazia. È chiaro, sempre per queste problematiche qua bizantine, quando sarebbero una roccaforte sul territorio, i ragazzi ci si potrebbero trovare, suonare, fare, coltivare i propri talenti anche extracurricolari. No, ovviamente. E studiare a casa meno possibile. La scuola è fatta per studiare insieme, come faceva Don Tania Barbiana, non è fatta per ascoltare un professore che parla. Grazie a Beppe Severgnini, italiani di domani, questo percorso nelle scuole superiori di oggi, dove ci ha raccontato Beppe, ha incontrato italiani straordinari, e questo ci fa ben sperare contro il disfattismo imperante e strisciante. Grazie, naturalmente buon lavoro. Ora ritorneremo tra poco con le vostre opinioni, perché all'800 24 00 24 tanti vogliono dirci perché rifarebbero o no la scuola che hanno frequentato quando avevano 14 anni, ma voglio presentarvi Ilaria Ioppa. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a tutti. Ilaria, qui c'è un problema anche legato al valore non solo del titolo di studio, ma al valore dal punto di vista occupazionale di quello che si sceglie. Allora, l'abbiamo disturbata, lei è una recruitment specialist del servizio First di G Group. Dunque, cosa vuol dire? Che praticamente dedica la sua vita al reclutamento di nuove risorse, orientamento, esatto, selezione i giovani, selezione i candidati. Ora le chiedo, Ilaria, quando lei ha a che fare con questi migliaia, questo esercito sterminato di giovani che ricercano una posizione sul posto di lavoro o la cambiano, anche persone molto molto molto qualificate, alla voce istruzione superiore, maturità, ci arrivate? Andate a vederla, cioè che peso ha oggi, o si guarda solo la laurea o ciò che avviene dopo? No, quasi sempre si guarda anche l'istruzione superiore, che comunque è fondamentale, anche perché abbiamo delle aziende clienti che ci richiedono espressamente che prima del percorso prelaurea vengano portate avanti determinati percorsi di studi, che possono essere un liceo classico, ma così come può essere anche a volte una scuola invece più specifica, come per esempio una ragioneria, un alberghiero o anche un ITIS, cioè una scuola anche più professionale. Perciò direi che è fondamentale anche la scelta della scuola superiore oltre che dell'università. Senta Ilaria, ma dal suo punto di vista, si segnalava adesso in base a certe rilevazioni fondate sulle iscrizioni, tra poco si aprirà l'anno, un calo del liceo classico, un aumento invece delle richieste di liceo linguistico e di altri tipi di licei e di altri tipi di scuole come lo scientifico tecnologico, che praticamente uno scientifico che non ha il latino però ha molte più ore di informatica e di lingue straniere. Ecco, dal vostro punto di vista, il liceo classico, c'è ancora qualche manager, qualche amministratore delegato, qualche ufficio di risorse umane che le chiede esplicitamente vorrei un candidato con formazione umanistica anche se opera in un altro settore, o ormai è tramontata quel fascino, quel valore che si dava al liceo classico? Non so, le chiedo. No, ci sono ancora manager, amministratori delegati, ma soprattutto appunto manager che chiedono una maturità classica prima della laurea. Qui, se posso, abbiamo notato una differenza tra quelle che sono le multinazionali, i nostri clienti, piuttosto che quelle che sono le piccole e medie imprese, nel senso che abbiamo molti più manager di multinazionali che ci richiedono una maturità classica prima della laurea piuttosto che una piccola e media impresa, che invece magari richiede, non so, prima di una laurea in economia un percorso più specifico come invece più tecnico perciò, magari. Sì, devo dire che qui c'è una differenza tra queste due. E quindi l'abbiamo sentito dal mercato, Ilaria Ioppa è la voce praticamente al mercato, anzi è ancora più cruciale forse il momento, l'accesso al mercato. Grazie per questa testimonianza, naturalmente fantastico Severgnini, questo quello che ci scrivono gli ascoltatori, sono gli italiani di domani, però attenzione, segnalano a Beppe Severgnini, è importante anche che escano di scena quelli di ieri e dell'altro ieri, perché questa è una caratteristica che è necessaria, un passaggio necessario perché non si crei un collo di bottiglia. Tantissime segnalazioni su questo tema, tra pochissimo vi presenteremo altri ospiti e sentiremo altre vostre esperienze. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. 10 minuti per concludere. Lucia dalla provincia di Pesaro, buongiorno. Pronto? Chiara, buongiorno. Pronto? Sì, dica. Buongiorno, provincia di Pescara, città Sant'Angelo. Senta, mi hanno allora scritto Pesaro. No, è Pescara. Non importa. Allora, senta, io le voglio brevemente raccontare la mia esperienza. Io sono alla soglia dei 60 anni. E negli anni 70 ho fatto le superiori ed essendo la prima di 7 figli, anche di una famiglia piuttosto povera, mi sono dovuta accontentare di una scuola professionale e non del liceo classico che io avrei voluto fare, diciamo anche perché mi sentivo molto portata per le materie letterarie, classiche, quindi ho dovuto ripiegare su una scuola professionale che però devo dire mi ha dato una opportunità grandissima, perché io posso dire di essere una che è partita dal basso e che ce l'ha fatta. Cosa ha fatto poi nella vita, se glielo posso chiedere? Sono entrata a lavorare in una multinazionale e sono diventata responsabile del recupero crediti. Per cui, quindi dire, molto soddisfatta del suo percorso molto, e questo si rifà a quello che ci diceva esatto poi Boncinelli, sono sì le persone, diceva il grandissimo scienziato che ha frequentato il liceo classico, sono in realtà le persone che poi andranno a in qualche modo fare tesoro dei propri talenti, a costruirsi dei percorsi, perché se tu sì frequenti il liceo classico ma ti ci ha costretto il padre perché faceva l'avvocato e voleva che tu lo facessi, mentre sei una grande rockstar e quella è la tua strada, probabilmente poco trarrai, non solo poco trarrai dall'insegnamento del greco, non è quello il problema, soffrirai anche tanto, perché ci segnalano alcuni giovanissimi ragazzi il problema è anche questo, quando le scelte sono quelle dei genitori e non dei figli, le bocciature, l'essere rimandati frequentemente comportano nei giovani una grande sofferenza, un grande senso di inadeguatezza. Grazie a Lucia dalla provincia di Pescara. C'è chi segnala la necessità dell'ammodernamento di certi insegnamenti che potrebbero essere resi più appetibili se i manuali non fossero vecchi, se i metodi non fossero quelli, non del secolo scorso, prima, dell'inizio del secolo scorso o di quello precedente. Alessandro Marzomagno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per la pazienza con cui hai ascoltato tutti. Alessandro Marzomagno è uno scrittore, un giornalista, autore quest'anno di Storia dei soldi, ma non è per questo libro che io vorrei che tu partecipassi a questa trasmissione, ma perché hai scritto un libro. Tu tra l'altro rifai anche questi libri di testo, la didattica la conosci bene perché hai a che fare con i manuali sempre, ma hai scritto questo libro straordinario che si chiama Bastarde senza gloria. Cos'è? Ma sono storie di donne, storie, biografie femminili di donne eccezionali che hanno avuto una caratteristica in comune, cioè quella di essere nate a Venezia. E donne eccezionali, chi lo stabilisce? Cioè qual è il criterio? Quel quale tu... io ovviamente. No, ma certo, parlando di lauree, parlando di titoli di studio, esatto. Stiamo sul tema, stiamo in seminato per oggi. Ci sono dei criteri oggettivi e tu hai fatto sì, scoprire ma... con questo libro elementi che non sapevamo, pur avendo passato qualche oretta sui libri di storia anche noi al liceo classico. Infatti questo dimostra come si studia la storia in Italia al liceo classico, io ho fatto il classico, ma in Italia, cosa che pochissimi sanno, abbiamo la prima donna laureata del mondo. Come si chiama? si chiamava Elena Lucrezia Corner Piscopia, era una nobildonna veneziana che nel 1678 si laurea in filosofia all'Università di Padova. È la prima laureata del mondo. Ora, quanti sanno chi è questa signora? Quanti sanno chi è la prima laureata del mondo? Un'eccellenza italiana di cui facciamo a meno, forse perché è una donna, o forse perché siamo abituati in Italia a buttare per lei. Poi non è l'unica. No, le prime quattro italiane laureate, cioè le prime quattro laureate del mondo sono tutte italiane. C'è una bolognese, una rodigina e una ligure che si è laureata a Pavia. Le prime quattro laureate del mondo. Comunque questo è sintomatico di come si potrebbe riempire anche i libri di scuola di elementi di estrema attualità, molto accattivanti. Tu hai fatto il liceo classico, lo rifaresti? Ma guarda, prima che sentivo facevi le domande, è una risposta difficile, sai che ti dico che non lo so, perché com'era ai miei tempi direi proprio di no. Io per esempio, io ho 50 anni, quando ho fatto il liceo classico io si studiava inglese soltanto i primi due anni, lingua straniera, poi nel mio caso era inglese. Ora, oggi è impensabile uscire da una scuola senza sapere una lingua. E oggi anche al liceo classico si studia a 5 anni, che non vuol dire che poi lo si parli, cioè perché poi no, esatto, tu sai bene, avendo una famiglia multilingue, come c'è un problema anche nella metodologia di insegnamento delle lingue qua in Italia, che passa sempre per i libri, sempre per la grammatica e mai per l'esposizione a cinema, al linguaggio parlato, a film, a madrelingua. Molti istituti si stanno attrezzando, quindi diciamo anche il vero. Alessandro? Posso fare una piccola annotazione? Devi, ho tempo? Devi. Allora, senti, il dato fondamentale è che in Italia la scelta della scuola superiore è una scelta, più che una scelta culturale, è una scelta sociale, e questo è una cosa gravissima. Perché cioè dà uno status, tu dici, alla famiglia? Dà uno status, bisogna seguire le proprie inclinazioni culturali, non le proprie aspirazioni sociali nella scelta di una scuola superiore. Ma volevo dire, pensa agli ospiti e a quelli che hanno parlato oggi, no? Hai avuto, vabbè, una preside del liceo classico, non può che aver fatto il classico. Lo scienziato Boncinelli ha fatto il classico. L'immodesto giornalista, scrittore di libri che sta parlando in questo momento, ha fatto il classico. Beppe Serenini ha fatto il classico. Il neurochirurgo ha fatto il classico. Qual è il messaggio che passa? Che mettiamo un filtro alle telefonate. Io credo che quella sia, no? Non credo questo. No, il messaggio che passa è che se vuoi fare il neurochirurgo, se vuoi fare lo scienziato, se vuoi fare il giornalista, se vuoi diventare Severnini e se vuoi far parte di una classe culturale e sociale medio-alta, devi fare il classico e tutto il resto non esiste. Ecco, messaggio fuorviante. È assolutamente fuorviante, perché non è assolutamente così. Purtroppo in Italia c'è questa mentalità secondo cui chi fa il tecnico è così, un personaggio di serie B, no? Quali paesi ispirarsi allora secondo te? Ma io penso sempre al mondo di lingua tedesca. Il mondo di lingua tedesca ha le scuole, gli istituti tecnici, lì si chiamano Realschule, che sono delle scuole assolutamente d'eccellenza, e chi va a fare l'istituto tecnico non è considerato così meno socialmente meno elevato di chi va a fare il gymnasium, ovvero i licei. Non c'è questa distinzione sociale e tra come funziona la società tedesca, come funziona la società italiana, quale funziona meglio? E dobbiamo parlare in termini economici, produttività, o andiamo sui mondiali di calcio alla finale del 2006? Perché sai, poi bisogna rifugiarsi allora anche lì. Messico 70, ma insomma. Bisogna rifugiarsi lì. Grazie Alessandro Marzomagno. Un input molto importante: la scuola come status, attenzione, e non come il luogo dove poi si svilupperanno le proprie, non solo idee, ma i propri talenti. E c'era questo status un po' di serie B fino a qualche anno fa. Verso gli istituti tecnici c'era quasi questa situazione per cui l'istituto tecnico era quella scuola in cui, se non riuscivi a entrare al classico, allo scientifico e in altri licei, dovevi frequentare. Ora per fortuna le cose sono un po' cambiate. Professoressa Emilia Marano, la preside del liceo classico Virgilio, ha sentito molti stimoli. L'attualità della scuola liceo classico mi sembra sia ancora salva agli occhi di molti. questo sono contenta, proprio tanto. Senza togliere nulla ai tecnici e ai professionali, per carità, ci sono dei professionali degnissimi, dei tecnici degnissimi, e la nostra società ha bisogno di questo tipo, di queste scuole. Solo che non si può dire che il classico sia passato di moda, perché non lo è. Noi ci siamo attrezzati per le lingue, abbiamo un Comenius che abbiamo portato avanti sul classico, ci stiamo attrezzando per i laboratori e si va avanti con gli scambi, anche con il classico. E quindi anche il classico ha questo registro moderno ormai. Chi vuole si può attrezzare bene per il futuro e anche per il presente. Questa non è un'equazione matematica e non c'è una certezza, ognuno ha un'opinione, le opinioni sono benvenute in questi ambiti, però sono elementi importanti per pensare al domani, agli italiani di domani. Grazie a tutti voi, da Irene Zerbini, Spunti di Vista ritorna domattina alle 8:15.